Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Mi trovo a Roma nella Piazza dei Santi Apostoli e tra poco andrò a visitare, perché è aperta solo il sabato mattina, una delle collezioni d'arte private più mirabolanti che si conservino a Roma, in Italia e nel mondo intero. È la collezione dei Principi Colonna. I Colonna sono stati una grande famiglia romana, hanno avuto papi Martino V e hanno avuto personaggi e condottieri molto importanti, tra cui Marcantonio Colonna, uno di quelli che vinse la battaglia di Lepanto. Questo palazzo è decorato in modo fastosissimo. La cosiddetta Galleria Colonna è uno dei luoghi più impressionanti che si possono visitare. Perché? Perché sono rimaste intatte. Tutte le pareti della galleria sono tappezzate di dipinti importantissimi e la sala grande della galleria, che è una grandiosa galleria, è anche tappezzata di specchi dipinti e sono presenti molte statue antiche. L'insieme è spettacolare. Perché dobbiamo tornare a visitare questo luogo? Perché di recente è stato pubblicato un nuovo catalogo dei dipinti a cura di Patrizia Pergiovanni, che è la direttrice, che ci permette di visitare con un nuovo strumento a disposizione questa galleria, che ha dei capolavori mozzafiato, alcuni famosissimi, per esempio il celeberrimo Mangia Fagioli di Annibale Carracci, un quadro stranissimo dove un contadino si sta abbuffando con un piatto di fagioli e ci si domanda che cosa ci faccia nella collezione di un principe un soggetto così singolare. Ma abbiamo dei meravigliosi quadri di Bronzino, una Venere straordinariamente erotica, una Madonna col Bambino eccezionale e così tanti capolavori della scuola emiliana, perché tutti i membri della famiglia nei secoli hanno contribuito ad arricchire la collezione, chi sposando per esempio una Salviati, cioè una fiorentina, e portando opere fiorentine, chi invece facendo il cardinale legato di Bologna e riempiendo la propria casa di Roma di opere emiliane. Poi ci fu anche la necessità di vendere, perché i Colonna, quando arrivò Napoleone, aiutarono il Papa a pagare le altissime multe che Napoleone impose allo Stato Pontificio e lo fece vendendo, per fortuna, una solo una piccola parte della Galleria Colonna.